Mix 24, la storia. Ricordo delle recite incredibili che ho sentito alla Scala, proprio con Maria Callas, interprete di Norma. Io ero ragazzina, studiavo il canto, ma penso veramente la mia vita è stata presa da questo Bellini cantato in modo geniale. Ti fa arrivare proprio all'apice della sofferenza, finché proprio l'interprete non arriva a sentire completamente proprio il dolore insito nella musica di Bellini, non si può cantare Bellini. Lui stesso dice: a me interessa dare vita alle passioni dell'uomo, alle passioni dell'uomo. Ecco, e allora la musica diventa uno strumento affinché le passioni possano manifestarsi. Sono melodie semplicissime, con un fiume di pathos dentro. È come un filo teso fra l'anima della protagonista e il resto del mondo. Melodie in apparenza semplicissime che colpiscono al cuore parlando di passioni. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di Vincenzo Bellini, massimo esponente del romanticismo musicale italiano, dotato di una prodigiosa vena melodica e di un naturale eclettismo. Il genio, nato a Catania nel 1801, ha composto musica sacra, musica da camera, per voce, per orchestra, e al termine di una vita breve ma intensa ha lasciato una serie di indiscussi capolavori: Il Pirata, La Sonnambula, I Puritani e naturalmente La Norma. Proprio La Norma, rappresentata per la prima volta nel 1831 a Milano e a Parigi, segna una vera e propria svolta nella vita e nella carriera di Bellini. Nella capitale francese, dove vive dopo aver studiato al Conservatorio di Napoli, il musicista entra in contatto con i grandi compositori dell'epoca e il suo stile si arricchisce. Io sfidai. Il dramma per musica deve far piangere, inorridire, morire cantando. Chi sorte di questo è perduto e alla fine avrà dato alla luce un'opera pesante, stupida, che solo piacerà alla sfera dei pedanti, mai al cuore. Così scrive Bellini all'amico Carlo Pepoli. È il maggio 1834. La novità è la presenza, nei suoi libretti, di temi nuovi come la redenzione, la follia e il sonnambulismo, di donne che vivono una dualità tra la loro vita esterna e la loro vita interiore. Ciò che interessa al compositore catanese è la reazione emotiva che le protagoniste vivono in balia degli eventi. Con la musica espressiva Bellini importa e interpreta in Italia, prima di ogni altro, il gusto del melodramma ottocentesco. Ce ne parla Renata Scotto, soprano. Un'opera che io ritengo che sia il capolavoro dei capolavori, sul testo, sul personaggio, sulla musica, sulla completezza proprio della grande opera, del grande melodramma dell'Ottocento, è stata sicuramente Norma. Il personaggio di Norma inizia con un recitativo ai druidi, dove rimprovera per aver sentito delle voci su cui oserebbero anticipare una battaglia o qualcosa senza il suo permesso. E poi mette a posto la situazione e dice: ora basta, perché ora noi dobbiamo pregare. E richiama l'attenzione sulla preghiera. Ma la preghiera che cos'è? È casta diva. Una tessitura medio centrale che poi si alza fino ai confini alti, mantenendo il suono intonatissimo, perché sotto l'orchestra poco suona, perché c'è solo i violini che accompagnano. Niente, c'è un... Norma rivisita il mito classico di Medea incarnando l'ideale romantico per eccellenza. Sacerdotessa votata alla castità, figlia del capo dei druidi, Norma si innamora del nemico romano Pollione, da cui ha due figli. Tradita dall'amica Dalgisa, a differenza di Medea, Norma non uccide i propri figli. Perdona la rivale e, assumendone la colpa, si avvia al martirio. A parlarcene la musicologa Simonetta Chiappini e il pianista Antonio Rostagno. Norma ha compiuto questo atto terribile, diciamo, di unirsi a un nemico, cioè a un romano, che è un tema tipico di tutto il melodramma, che si collega così tanto col tema nazionale, poi del conflitto nazionale, del conflitto tra desiderio privato e ruolo sociale e dovere collettivo. Se a questa melodia così perfetta nella sua autonomia, nella sua equilibrio di slancio e ricadute, paragono invece il momento in cui Norma, in uno stato di evidente alterazione mentale, come Medea, sguaina il pugnale per ammazzare i suoi figli e poi non ci riesce, ecco che abbiamo un'altra donna, una donna che non si esprime più così perfettamente, monumentalmente, con una melodia equilibrata, ma con un frammento di melodia. Teneri, teneri figli, essi pur dianzi delizia mia. E davanti ai figli questo impulso di ucciderli si ferma. Il fatto che l'Ottocento non possa vivere Medea è significativo. E Bellini lo rappresenta bene con questa opera straordinaria in cui la protagonista tenta di uccidere i figli, ma non ci riesce. E soprattutto si assume su di sé la colpa. Questo direi è proprio il simbolo profondo dell'eroina romantica. Il passo successivo sarà Traviata. È nel 1835 a Parigi che il compositore ormai noto come il Cigno di Catania spicca il suo ultimo volo dal Teatro Italien. L'opera I Puritani, nata nella mondanità dei salotti parigini e interpretata dai più grandi cantanti dell'epoca, è un trionfo del melodramma italiano. E così Bellini ne parla allo zio Vincenzo Ferlito nel gennaio di quell'anno. Mi trovo all'apice del contento. Sabato sera è stata la prima rappresentazione dei Puritani. Ha fatto furore che ancora ne sono io stesso sbalordito. Non credeva scuotere questi francesi, che poco comprendono la lingua e che al più possono gustare il mio genere. Ma quella sera non mi parve trovarmi a Parigi, ma a Milano o in Sicilia. Al mio sortire tutte le signore applaudirono sventolando i loro fazzoletti e gli uomini agitando i cappelli in aria. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Vincenzo Bellini, il Cigno di Catania, musicista, compositore. Dopo aver studiato a Napoli, lavora a Parigi, dove vive in mezzo a esuli italiani e esuli politici, come raccontano il pianista Antonio Rostagno e il critico Mario Bortolotto. I circoli democratici, i circoli della principessa Belgioioso, c'erano i Mazziniani. Ognuno di questi gruppi cerca in un operista il suo rappresentante, perché evidentemente l'opera in quel momento era un genere di grande diffusione di idee. Piangi, oh figlia, sul mio seno, piangi, piangi di contento, ti cancelli. Heinel, il grande poeta tedesco, parla di questo Zerbinotto, il quale era famoso per la sua eleganza, insomma, i suoi polsi, il pizzo, le scarpine da ballo, insomma, È bellissimo il pezzo di Heine, ci fa venire questo individuo il quale, sentendosi provinciale fino al delirio, si affrettò molto, molto presto a imparare un nuovo ruolo, insomma, di essere un uomo alla pace. La tromba in tremito, io pugnerò la morte, per affrontar la morte, gridando libertà. Questo duetto è di un liberale da far paura. Qui a Parigi si amano pensieri di patria e libertà. Questo duetto a Napoli non si farà. Suoni la tromba, intrepido, io pugnerò da forte, bello è affrontare la morte gridando libertà. Questa parola libertà, che veniva urlata da baritono e basso, nelle prime rappresentazioni italiane naturalmente non è stata concessa e lo stesso Bellini ha sostituito con la parola lealtà. Figuriamoci, lealtà potrebbe essere lealtà all'amico, certo, ma anche al regnante, quindi proprio esattamente l'opposto. Il lavoro attento e costante della censura colpisce nomi illustri come Rossini e dedica particolare attenzione ai testi delle opere di Bellini. Questo avviene fin dal suo debutto, quando, per evitare inconvenienti, il compositore catanese decide di modificare il titolo della sua opera da Bianca e Fernando in Bianca e Germando, aggirando così l'omonimia con il sovrano di Napoli, Re Ferdinando. Beh, non credo che Bellini abbia molto, molto a che fare con la censura, sia perché lui era un uomo che si sapeva molto fare, era molto, sia perché i testi che di cui ha scelto sono quasi tutti di carattere amoroso, di rivalità amorosa, di gelosia, cioè non hanno implicazione. Appena qualche cosa compariva nel senso, chiamiamolo così, come diceva lei, risorgimentale, la censura, che non era fatta da degli imbecilli, ma da fior di mascalzoni, vuol dire, che conoscevano meravigliosamente il loro mestiere, insomma. E questi gli scovavano subito, ma si arrivava ad avere poi aberrazioni nel tagliare i libretti, insomma. Il Rigoletto fu un delirio, insomma, di tagli. Cinta di fiori a col bel grindiso alto, color la cara vergine s'aggira e piega l'aure. Quello che a lui interessa è la particolare drammaturgia, che lui sintetizza in una sua lettera, a mio avviso molto eloquente, e dice: per quest'opera, i puritani, non c'è alcun carattere cattivo che procuri sventure, ma il destino è creatore di tali sventure. Quindi le commozioni sono più forti, perché non si trova un umano riparo. Il mio soggetto è di questa natura, e spero moltissimo, primo, che mi ispiri la poesia, secondo, che faccia profonda impressione, unito alla mia malinconica musa. Io credo che proprio questa malinconia sia proprio il carattere con cui molti osservatori stranieri, vicino alla causa patriottica italiana, guardavano. Guardavano l'italiano come l'oppresso e la cui malinconia era l'espressione di un bisogno di libertà. Quindi proprio questa categoria, la malinconia, la malinconica musa, non è soltanto un attributo artistico o descrittivo, ma è realmente il carattere di quel momento, interpretato nella musica di Bellini. Le uniche sue vere amicizie sono rimaste quelle dell'infanzia, della gioventù perlomeno, ossia Francesco Florimo e i parenti, lo zio Ferlito. Le persone che invece frequenterà più avanti sono persone di cui si fiderà sempre fino a un certo punto, per non dire che non si fiderà proprio. Eccomi uscito di Palpiti. L'opera ha fatto l'effetto desiderato. I miei nemici avevano di già incominciato a dir male dopo la prima sera. Ma dopo gli applausi del re si sono disdetti col dire che le musiche di Bellini, per gustarsi, bisogna sentirle più volte. Bellini si vede oggetto di congiure, di manovre ai suoi danni da parte di impresari, amministratori e soprattutto colleghi, come scrive all'amico Francesco Florimo. I trionfi di pubblico e critica lo rendono un protagonista indiscusso dell'ambiente teatrale. Ma quando la prima della Norma debutta il 26 dicembre del 1831 alla Scala, non riscuote il successo sperato e il compositore non esita nella lettera allo zio Ferlito ad attribuirne la causa a complotti e macchinazioni. A dispetto di un partito formidabile a me contrario, perché suscitato da una persona potente che fa questo perché è l'amante di Pacini e quindi mia nemica, la seconda rappresentazione della mia Norma ha sbalordito. Ieri sera fu chiamato fuori anche nel primo atto ed il secondo fece più effetto della prima sera, talmente che il mio trionfo fu deciso in modo che si spera che l'opera che chiuderà il carnevale sarà la perseguitata norma. I miei amici tripudiano, io soddisfattissimo, doppiamente contento perché ho sconfitto tanti miei vili e potenti nemici. Questo atteggiamento ha il suo momento culminante nel periodo parigino e lo si vede soprattutto nel suo rapporto con Rossini. Rossini era il direttore più o meno culto del teatro italiano che aveva commissionato a Bellini un'opera e quindi aveva tutto l'interesse a che quest'opera avesse successo. Eppure Bellini parte dall'idea che Rossini gli è contrario perché istigato da nemici occulti, dalle manovre oscure di Pacini o di Donizetti e che faccia di tutto per danneggiarlo, per parlare male di lui. Era il musicologo Fabrizio Della Seta. A 18 anni, grazie ad una borsa di studio offerta dal comune di Catania, Bellini inizia a studiare al Conservatorio di Napoli. Crescere in una famiglia di musicisti in una città di provincia è un po' difficile perché ti innamori della musica, quindi vai a toccare con mano questa entità straordinaria e al tempo stesso sei consapevole della difficoltà, dell'impossibilità quasi di poterti esprimere. A Napoli, nel Regio Conservatorio di San Pietro a Maiella, grazie a maestri come Antonio Zingarelli, completa la sua formazione, acquisendo lo stile classico che il musicista porterà sempre con sé, esprimendo però la tipicità del melodramma mediterraneo. Oltre a questo, l'influenza e il genio innovatore di Rossini. Tutto ciò segnerà i gusti e le tendenze, come spiegano i musicologi Simonetta Chiappini e Fabrizio Della Seta. Madame de Staël, quando viene in Italia, diceva: solo chi ha sentito il canto italiano sa cosa voglia dire, o le voci italiane, sa cosa vuol dire il bel canto o il canto davvero. Infatti è sempre stata tradizionale la contrapposizione tra il sinfonismo o l'armonia, come si diceva allora, tedesca e la melodia italiana. Per cui si è sempre detto che, diciamo, la musica italiana ha come grande valore e caratteristica l'aspetto melodico. L'insegnamento nel Conservatorio di Napoli era caratterizzato da un culto della tradizione antica e infatti almeno la leggenda vuole che Zingarelli scoraggiasse i suoi allievi, anche Bellini, dall'ascoltare troppa musica moderna, troppa musica contemporanea. In Bellini si può osservare la convivenza di alcune concezioni generali che derivano sicuramente dalla eredità della tradizione napoletana e contemporaneamente anche il fascino di l'influenza di Rossini che si manifesta soprattutto nell'adozione delle forme musicali, come se volesse conservare il meglio della tradizione e arricchirlo, rinnovarlo con le acquisizioni di quello che allora era senz'altro un compositore d'avanguardia. I miei desideri sono soddisfatti appieno. Mi dispiace una cosa sola, che donna Cristina lasciò la musica. Essa tiene il pianoforte che dorme ed io qui ne desiderassi uno per sollevarmi l'anima. Mi doveva comprare un cembalo a martelletti e non ne ho potuto trovare uno. Fanno dei pianoforti piccoli e ne vogliono sangue. E cotesta mia cugina calcola cotesto bello strumento per niente. Iddio manda il pane a chi non ha bocca. Bellini fa un saggio come studente al Conservatorio di Napoli. Quello che propone è talmente bello che viene scritturato alla Scala di Milano ed è lì un trionfo. Oggi sarebbe una cosa assolutamente impensabile, impossibile. Uno studente di conservatorio viene notato a un saggio e quindi viene scritturato alla Scala per proporre la propria opera. Ma è fantascienza oggi! Mix 24, la storia. Bentornati a Mix24. Quello che raccontiamo oggi è la storia di uno dei padri del melodramma italiano, Vincenzo Bellini. Il compositore ha due importanti successi, Il Pirata nel 1827 e La Straniera nel 1829. Grandi passioni, storie truculente, e lo vediamo anche nel modo di impostare il discorso drammatico, tutto concentrato su pochi personaggi che si scontrano tra di loro, agitati da passioni intense, con un esito catastrofico per tutti. L'avvento di Bellini ha rappresentato un punto di svolta nella concezione dell'opera italiana. La prima opera veramente romantica di Donizetti è l'Anna Bolena, che è del 1830, cioè alcuni anni dopo il Pirata. Era Fabrizio Della Seta. Nella scena teatrale dei primi dell'Ottocento, il ruolo del compositore, al di là dei risultati ottenuti, viene posto ai margini. L'opera infatti è concepita dagli impresari come un prodotto di largo consumo destinato a scomparire nel giro di una stagione. Grazie al suo enorme successo, Bellini mette per la prima volta in crisi questo sistema e apre a nuove soluzioni editoriali. Lo spiega lui stesso all'amica Giuditta Turina. Io, a meno di ciò che pretendo, non verrò. Perché già della sonnambula ho imborsato 3.000 ducati e calcolando il resto che si ricaverà dalla vendita dello spartito a molti teatri, capirai che ne ricaverò ancora 800 ducati. Quindi, se l'impresario Barbaia mi vorrà pagare 3.000 ducati, mi avrà. Diversamente si stia con gli altri. Non è questione di attaccamento ai soldi, ma è questione che il musicista, proprio nel momento di Bellini, comincia a cambiare il suo statuto sociale. Lui è consapevole che un'opera non è più un bene di consumo, ma è un bene che deve rimanere nella storia, che ha un'anagrafe, ossia una nascita, ma non un uso immediato e basta, bensì dopo la nascita c'è anche uno sviluppo nella storia che va al di là dell'autore. Per questo un'opera deve essere originale, deve essere meditata, bisogna comporne poche perché devono sfidare i secoli. Bellini a un certo punto propone a Ricordi di cedergli i diritti su una sua opera, riservandosi di ottenere una percentuale fissa sulle vendite di questi spartiti. Questo è un fatto assolutamente nuovo per l'epoca. Bellini pone al centro della scena le sue eroine. La sua unicità risiede nelle straordinarie melodie che traducono in musica le emozioni delle sue protagoniste, melodie che sviluppa attraverso un uso semplice dell'orchestrazione, solo apparentemente naturali. In realtà ogni elemento cambia, rinnovandosi sempre come nessun altro compositore. È qui che si trova la genialità di Bellini, in una creatività estrema. Nella loro apparente semplicità, queste melodie lunghe, lunghe, lunghe nascondono appunto una complessità compositiva e anche una variabilità interna, una modulazione, una ricerca espressiva che si traduce poi in una fluidità, in una ricchezza armonica che appunto poi ha anche altri esempi, nel senso appunto Schubert o Mozart, che hanno questa vena melodica così profonda. La cosa distintiva del teatro di Bellini è la capacità di fondare delle psicologie, costruire delle psicologie dei suoi personaggi soltanto su questa ingegnosa costruzione melodica. Le sue melodie non sono mai periodiche, cioè non ripetono mai quello che abbiamo già sentito, mentre nelle melodie di Donizetti, fino alle melodie di molte canzoni attuali, è proprio la ripetizione che permette questa facilità di memorizzazione. Ecco un esempio dalla Sonnambula, opera della metà dell'inizio del 1831. È il cantabile, l'aria dell'ultima scena, in un momento in cui Amina, la protagonista, è in stato di sonnambulismo. Poi potrebbe ripetere e invece rinnova. E e ancora rinnova. E non ha ancora chiuso, continua a spingere in avanti e ancora si rinnova. E ancora entra l'orchestra, gli oboi, e ancora spinge in avanti. Potrei procedere, non finisce mai questa melodia, non ripete mai la stessa cosa, pur avendo, dando una impressione di estrema scorrevolezza e naturalità. Tecnicamente sappiamo quanto sia difficile interpretare Bellini, soprattutto i recitativi belliniani, e per interpretarli bene basta seguire pedissequamente quello che ha scritto Bellini, rispettarne ogni pausa. Sonnambula è molto più difficile da interpretare, più di altri personaggi, perché tutto è veramente dato in consegna all'interprete, alla sensibilità, alla bravura dell'interprete. Felice Romani scriveva che Amina deve avere un accento per la gioia e uno per il dolore. Anche lui dice che è uno dei personaggi più difficili perché deve esserci un grande studio dietro, ma lo studio non deve apparire, deve sembrare tutto facile, spontaneo. Un rapporto molto importante è quello che instaura Bellini con le cantanti più famose dell'epoca, tanto da modellare su di loro due opere come fossero abiti cuciti sulla misura delle loro voci. La pasta è un dio. Vi basti questa espressione per immaginarvi il come eseguisce la sua parte, sia per canto che per scena. Nel corso di tutto l'Ottocento si forma l'idea di un compositore che ha un dono divino della melodia. Non c'è un modo unico di concepire il melodramma. Quello di Bellini è fatto di conflitti e passioni umane che sono espresse dai personaggi, soprattutto attraverso il loro modo di cantare. La storia. Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Vincenzo Bellini, compositore, genio del melodramma, che a soli 34 anni muore colpito da un'infezione intestinale proprio dopo il successo indiscusso dei Puritani. Noi veniamo da un secolo, il Novecento, che ha creato il mito della complessità e quindi abbiamo paura della semplicità. Invece la semplicità è complessità risolta. Cioè è il risultato di un lavoro meticoloso e molto faticoso di passaggio attraverso la complessità per raggiungere finalmente questa purezza nella tessitura, così come nella melodia di Bellini, che è straordinaria perché arriva subito, viene immediatamente percepita dall'ascoltatore, ma al tempo stesso è inimitabile, cioè io non potrei scrivere un'altra casta diva. Direttore d'orchestra Fabrizio Carminati, cosa rappresenta Bellini per la Sicilia? La figura di Vincenzo Bellini è una figura che rappresenta il colore e il calore del sole e allo stesso tempo la timidezza e l'introspezione di quest'isola. E questi sono dei colori che nella sua musica sono sempre presenti e traspaiono immediatamente, insomma. Quali sono gli elementi di attualità delle sue opere? L'attualità delle sue opere sta nel fatto che queste linee melodiche infinite, che sono un cartello del romanticismo, prendono dritte al cuore chiunque si avvicini all'ascolto di queste pagine e soprattutto chiunque per la prima volta possa vedere un'opera dal vivo di Bellini. Questi ponti melodici infiniti che continuano ad andare al di là di non si sa cosa, trasportano e colpiscono al primo ascolto proprio chiunque. E questa è la grande attualità di questa musica e di questo compositore. Direttore Fabrizio Carminati, qual è il capolavoro di Bellini? Io amo molto i Capuleti e i Montecchi, perché è un'opera dei contrasti, dove è sempre presente la violenza, la cattiveria, il fato avverso e la grande costante che vigila e che vince su queste situazioni, che è l'amore, che poi diventa morte. Ma Capuleti l'amo molto, certo, Norma è un capolavoro assoluto. Qual è, se c'è, la particolarità della partitura appunto di Capuleti e Montecchi? La particolarità di questa partitura è appunto quella di questi ponti melodici che vanno fino all'infinito, come se fosse una poesia che non si ferma mai, una poesia che fa continuamente volare, fa volare l'ispirazione, la fantasia, queste melodie accompagnate da questo testo meraviglioso. Se guardiamo solo ad esempio il finale dell'opera, Vivi a Vivi, queste melodie meravigliose, oppure l'aria di Giulietta, sono dei momenti altissimi, di alta poesia musicale. L'opera in sé invece è un capolavoro di ingegneria musicale, perché appare talmente semplice all'ascolto che potrebbe far pensare che è semplice, invece è perfetta. Che è un po' la particolarità di Bellini, giusto? Sì, sì. Le voglio far ascoltare una cosa che dice Giovanni Allevi e poi commentiamo insieme. Bellini fa un saggio come studente al Conservatorio di Napoli. Quello che propone è talmente bello che viene scritturato alla Scala di Milano. Ed è lì un trionfo. Oggi sarebbe una cosa assolutamente impensabile, impossibile. Uno studente di conservatorio viene notato a un saggio e quindi viene scritturato alla Scala per proporre la propria opera. Ma è fantascienza oggi. È d'accordo con Allevi? Sono cambiati semplicemente i tempi. Ai tempi di Bellini il teatro d'opera era un momento di incontro e di confronto fra vari compositori. E ora? I compositori si guardavano fra di loro, si studiavano, si perfezionavano, si copiavano e c'era un mondo tutto intorno al teatro d'opera, al teatro musicale, che era frequentatissimo. Nonostante questi compositori viaggiassero in carrozza da Vienna a Milano e viceversa, ma l'attenzione che loro avevano verso loro stessi e verso i loro colleghi era altissima, ma proprio perché il teatro viveva completamente. Il teatro era una forma di aggregazione sociale, ogni teatro in una grande città era lo specchio della città, la gente ci andava per mostrarsi, per farsi vedere, per parlare, per incontrare. Oggi è tutto diverso, insomma oggi siamo abbagliati da internet, dalle televisioni, dai media. Io quindi è per questo motivo che sarebbe impossibile, non? È impossibile. Io dico che faccia conto, quando morì Bellini, Donizetti, che era già un compositore maturo, che aveva una carriera internazionale importantissima, restò talmente colpito dalla morte di questo giovane, che era veramente il simbolo del romanticismo italiano. Restò talmente colpito che scrisse a fiume una messa di requiem dedicata a Bellini, di una bellezza e di una ricerca introspettiva incredibile. Perché questi compositori si amavano fra di loro? Donizetti amava Bellini, lo amava, e ad esempio questo finale dei Capuleti è simile al finale di Lucia, che è del 31, per dire quanto questo mondo viveva di se stesso. Cioè era un ambiente più fertile, questo vuole dire? Sì, ma sicuramente. Quindi anche l'attenzione di un impresario teatrale che magari era alla Scala, che va a sentire un giovane che debutta, che fa un saggio in conservatorio, lo beccavano subito, perché subito avevano questa grande capacità profetica di vedere il genio sulla nascita, e quindi nascevano queste cose. Oggi siamo in un mondo completamente diverso, oggi c'è X Factor, ci sono tutte queste trasmissioni bellissime, per l'amor di Dio, perché io non sono uno che rimpiange sempre il passato, mi piace molto il passato, apprezzo anche molto il moderno, però sono mondi completamente diversi.